Bene, allora do inizio a questa serata e vi saluto intanto, sono contenta di vedervi qui con noi. La nostra biblioteca, come sapete, organizza settimanalmente degli incontri con autrici, con autori, un gruppo di lettura che si dedica prevalentemente alla narrativa locale e a tante altre iniziative che di solito illustro quando c'è una presentazione di un libro, perché per noi è un momento interessante di incontro con più persone contemporaneamente. Allora, questa sera abbiamo con noi Erika Job, si presenterà poi insieme a Massimiliano Boschi, e che fa da moderatore e ci racconta attraverso il suo libro appunto il nostro territorio, ecco, con uno sguardo diverso. Il titolo è un titolo interessante, anche diciamo così un po' piccante, piccolo manuale di sopravvivenza, e siamo molto curiosi di conoscere come vede la terra che noi amiamo e che abitiamo forse anche dalla nascita. Quindi ringrazio tantissimo la nostra ospite Erika Gioppe e ringrazio anche Massimiliano Boschi che si presta appunto questa sera in qualità di moderatore. Ne approfitto, come vi dicevo, anche per ricordarvi l'ultimo appuntamento, diciamo, del nostro gruppo di lettura, che avrà luogo domani alle ore 17, dove leggeremo insieme e commenteremo un nuovo libro, e questa volta sarà il turno di Matteo Righetto con il suo libro Il sentiero selvatico. Noi nel gruppo di lettura che abbiamo intitolato Localmente ci occupiamo di narrativa appunto locale. Domani siete invitati a partecipare o se non altro a vedere come ci muoviamo all'interno di un gruppo di lettura. Infine faccio un appello per quest'estate: se conoscete qualcuno che sta completando gli studi e sta facendo una tesi di ricerca, di laurea per il triennio, la magistrale, eccetera, e ha però un'attinenza col territorio, noi lo premiamo. Quindi ecco, che si metta in contatto con noi. Il premio Claudio Augusto è un premio che dura ormai da quando siamo nati, è una delle prime cose che abbiamo realizzato e funziona, è sempre giovane, si mantiene sempre in forze, e quindi per alimentare e soprattutto per ringiovanire la nostra documentazione, renderla sempre attuale, chiediamo ogni anno, facciamo così un appello ai nostri giovani, alle nostre giovani, che ci portino i loro lavori, le loro ricerche. Ecco, questo è un po' il nostro lavoro. La biblioteca rimarrà aperta tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Riprenderemo poi proprio all'inizio di settembre con le nostre iniziative, ogni martedì sera e poi anche in altre giornate. Ci dedicheremo in particolare quest'autunno alla storia moderna e contemporanea, con attinenza locale ma anche con lo sguardo nazionale ed internazionale, quindi saranno degli appuntamenti molto interessanti, dedicati realizzati in collaborazione con le università, quindi vi invitiamo a tenervi liberi il martedì sera dalle 17:30 in poi per una full immersion nella storia e in un percorso, ecco, guidato anche con docenti universitari. Grazie, e grazie ai nostri ospiti, grazie a voi, una buona estate e buona lettura. Grazie. In mano, lo teniamo. Funziona, sì. Allora lo reinserisco. Allora, intanto grazie a tutti di essere qui. Come capita spesso nelle presentazioni di libri, la quota maschile è nettamente minoritaria, sono quasi tutte donne. Ormai è andata così. È quasi sempre così. Sì, esatto. Ma a parte questo, siamo qui per presentare il libro di Erika Job, Sutiro, il piccolo manuale di sopravvivenza, che trovate in vendita al banchetto anche in versione in lingua tedesca. Come prima cosa, ovviamente, introduco l'autrice Erika Job, che ha un percorso molto particolare. Si è arrivata in Alto Adige Sutiro, diciamo, passando dalla Cina, che di solito non è il tragitto. Non è il tragitto più breve. Esatto, il tragitto più breve. Appunto, ha vissuto, nata in Cadore, ha vissuto tra Roma e Pechino, poi ha deciso, spiegherà meglio poi, anzi in gran parte si capisce anche nel libro, i motivi per cui si è trasferita da queste parti, e credo di essere stato selezionato per la presentazione, in quanto anch'io non sono altoatesino, sono nato a Bologna, mi sono trasferito ormai 12 anni fa, e la cosa un aspetto che mi ha stupito immediatamente del libro è quello, la grande differenza, diciamo, dell'Alto Adige che vedo io vivendo a Bolzano rispetto a quello che ha visto Erika a Brunico e in Valposteria. Sembra proprio di essere emigrato in due luoghi completamente diversi. Un altro vista, libro. Vista la fatica che tu racconti qui, sono contentissimo di essere collegato qua in città, di non dover scalare niente, perché ciò non fa parte del mio. Mi sono risparmiato moltissime fatiche, sono contentissimo di essermele risparmiate. Però ecco, ci sono diverse figure raccontate in questo libro, uomini e donne sudtirolesi, ovviamente schematizzate, ma che sono persone che abbiamo tutti e che incrociamo tutti, soprattutto in Valposteria, ma non solo. A dire la verità, faccio solo una piccola premessa, io è vero che sono emigrato qui per strettamente motivi economici, sono un emigrante economico, però ho scelto questo territorio perché andavo da bambino in Valbadia, mi sono affezionato all'Alto Adige, quindi quando ci sono stati problemi a lavorare dove vivevo prima ho deciso di trasferirmi. Quindi quel mondo lì comunque mi ha sempre affascinato, è un po' come col lavoro, mi piace molto il lavoro, nel senso guardare gli altri che lavorano allo stesso modo quelli che faticano. Sulla questione della fatica poi torneremo, perché è un aspetto molto importante. Nell'introdurti e nel lasciarti la parola, ti chiedevo se volevi iniziare con la lettura di una parte molto divertente del libro, che riguarda una lettera a un personaggio molto noto, ma lo lascio spiegare a te. Ok, visto che è praticamente ora di cena, almeno a Perca, io leggo. Poi diciamolo, te faccio dire a te a chi ha indirizzato la lettera, così seminiamo un po' il panico. Perderai 5 kg in una stagione. Pisce fit. I local ti diranno che sei in forma. A latitudini diverse, però, la tua forma verrà interpretata diversamente. Oddio, come sei sciupata! Ma te fanno magnà lassù in Trentino. Sarà una dieta estremamente semplice, da seguire all'interno dei confini provinciali. Mezzo tagliere di speck, 2 canederli al burro fuso, una fetta di strudel, onesane, senza panna, non barare, 1500 metri di dislivello in salita e una Radler, Groas, bitte, grande. In caso di attacchi di fame isterica ti sarà consentito inghiottire un gurke, un cetriolo sott'aceto. In preda a uno di questi scriverai una convulsa lettera ad Arno Kompacher, presidente della provincia autonoma. Sir Gerter Landeshauptmann, sono una umile ma convinta sostenitrice della qualità della vita sudtirolese, una valce che si è fatta adottare in Valposteria. Sto affrontando il mio primo anno in Sudtirol e nonostante vacillamenti e tentativi di fuga, sono ancora qui a raccomandare con la piccozza in mano il vostro stile e modello. Evviva la vita all'aria aperta, nonostante l'odore penetrante dei campi concimati. Evviva lo sport praticato a livelli estremi, nonostante tali livelli siano talmente alti da non risultare nemmeno nei ranking nazionali. Evviva l'assenza di traffico. Certo, rimane il problema di Bolzano. Terribile il traffico di Bolzano. Una vera piaga, signor Presidente, lo so bene. Nonostante il mio stomaco apprezzi, glielo dico, signor Presidente, sul cibo c'è carenza. E se la cucina deve essere identitaria, glielo dico, signor Presidente, al diavolo l'identità. Passi il corso di dialetto. Passi il quartetto di ottoni dal vivo e alla radio. Passi il dirndl, mi proponga il lederhosen e io le risponderò volentieri. Ho reimparato a fare la raccolta differenziata, separo i tubetti dai vasetti, la carta dal cartone. Sinora ho riempito soltanto 4 sacchi di indifferenziato. Da un anno non bevo uno spritz. Mi sono piegata e adattata ad assumere qualsiasi miscuglio di bevande l'immaginario di madrelingua tedesca sia riuscito a produrre. Radler, spezi, hefe, limo. Ebbene, sì, all'occorrenza mando giù anche diesel, birra e Coca-Cola, signor Presidente, e con discreta nonchalance. Si pratichi tutti lo sci alpinismo, si ceni tutti alle 6 o addirittura alle 5. Ci sto. Non taglierò mai più i canederli con il coltello. Smetterò di criticare l'abuso del cucchiaio con gli spaghetti. E se qualcuno ordinerà un cappuccino a pranzo, mi asterrò dall'esprimere la mia riprovazione. Ma, bitte, bitte schön, signor Presidente, glielo chiedo con il cuore in mano, da umile cittadina, rinunci all'autonomia, ciuldige, all'autarchia sui menù. Ci conceda la carbonara, quella autentica, con il guanciale. Glielo assicuro, signor Presidente, l'identità sudtirolese non verrà scalfita. Non ci sarà traccia né di pusillanimità né di cellulite. Non verranno corrotti i costumi. Non chiedo i vini dei castelli. Dopo aver imparato a pronunciare Gewürztraminer, non sceglierei altro. Ma un piatto di orecchiette, un tortellino, un risotto, quelli sì. E non mi dica che quella è carbonara, signor Presidente. Io amo il vostro speck, ma il guanciale è un'altra cosa. In Sudtirol si mangia bene, non lo nego. Il latte della mucca e per la carne a ognuno è concesso un allevatore di fiducia. Ad aprile si può fare indigestione di asparagi, quindi arriva la stagione delle fragole, infine il frutto sacro, la mela. La selvaggina odora ancora di polvere da sparo. I finferli si sprecano, ma i menù, signor Presidente, sono un oltraggio alla fantasia. Sono rimasti a Maria Teresa d'Austria. Vanno bene per un maso chiuso. E la prego, non mi proponga la salsa bolzanina. Non mi lascerò corrompere. Non creda che abbia voglia di kebab, di involtini primavera, di lobsters annegate nel burro o di fish and chips. Vorrei una verdura ripassata, signor Presidente, con aglio e sale, un piatto di penne alla norma, una matriciana, niente di più. Mangiamola pure alle 6:30 la matriciana, ma una cosa le chiedo, che sia al dente. Mezze maniche al guanciale e carciofi, tonnarelli alla crema di limone, cicoria e stracciatella, bottarga e alici, prosciutto e fichi, fave e guanciale, melanzane e ricotta, paccheri al cavolo nero con mandorle e bottarga. Non dico tutti i giorni, signor Presidente, non abbiamo il fisico, si sa. Ma un giorno a scelta della settimana, come nelle diete quando ci si concede un giorno di trasgressione, magari il mercoledì. Ma sì, mercoledì libero, mercoledì Walsh. Non perderemo in virilità, non ci passerà la voglia di lavorare, non rimarremo 3 ore seduti a tavola, non diventeremo più italiani di quello che non siamo, ma almeno un morso di italianità ce lo conceda, signor Presidente. Forse prenderemo qualche grammo, ma sarà di pura felicità. A ogni evenienza, in tasca, terremo sempre un Malox. Mit freundlichen Grüßen, di Erika. Mi è venuta fame, tra l'altro. Infatti, anche a me. Sì, è vero. Devo anche precisare che, appunto, siccome io venivo da queste parti da bambino, è cambiato molto l'offerta, anche, non sembra. A Bolzano si mangia bottarga, come se piovesse. Magari. No, anche, no, intendo dire che quando si prendeva gli spaghetti in baita, solitamente arrivava questo piatto di spaghetti, il pomodoro e una noce di burro di duetti sopra. Questo adesso per fortuna non c'è più. Ho ancora vorrei conoscere la pastora dei maccheroni alla pastora, perché avrei da dirle due parole. Però invece una cosa che a me piace sempre molto è anche vedere come il turista tedesco venga in Alto Adige e beva vino e mangi spaghetti, e il turista italiano prenda i canederli o con la birra, cioè è il grande vantaggio turistico anche di questa terra. Una terra che però tu descrivi in maniera dettagliata e, come dicevo prima, soprattutto racconti, diciamo, diverse fatiche che hai dovuto fare, una dal punto di vista linguistico, una l'hai appena elencata, ma soprattutto una fatica fisica notevolissima, cercando di restare e tenere il passo con i sudtirolesi, che, come dici tu, solitamente si arrampicano dappertutto, corrono in bicicletta, corrono e basta. Quindi intanto, se vuoi raccontarci queste tue fatiche, non so, più di 12. Premessa, mi sono trasferita in Valpusteria, quindi non ho l'ambizione di, di descrivere appunto come sarebbe stato in un altro posto. Molto probabilmente mi sono anche per caso trovata a confrontarmi con delle persone particolarmente sportive, però sono tuttora convinto che questa casualità sia più alta in percentuale rispetto al resto d'Italia. Quindi io le prime persone che ho conosciuto, ma le persone che di fatto continuo a conoscere, come passeggiata fanno 1000 metri di dislivello dietro casa, ognuno ha 1000 metri dietro casa da fare. Il weekend fanno cime che non si definiscono cime se non sono oltre i 3000 metri di dislivello, scalano da quando erano nella pancia della mamma, quindi nella palestra dove arrampico io a Brunico le vie per bambini, quelle facili, sono sempre libere perché loro sono nati che sapevano già scalare, quindi non c'è nessun vero principiante. Sciano come campioni del mondo, neanche mancati perché lo sono, e non sciano nel senso della pista di sciare, nel senso della pista battuta dello sci, sciano nel senso che si buttano giù per i boschi, giù dalle cime, volando e facendo i salti mortali più o meno. E quando uno mi dice andiamo a fare fondo e io mi immagino, oh, finalmente mi metto gli sci, oggi mi faccio un giro di pista, sono normalmente con una persona che se fa fondo fa almeno 10 giri di pista, che sono quelli che io contavo di fare nell'arco della stagione. Quindi questo è quello che io, con cui mi sono confrontata in Valpusteria. Sicuramente, e può essere che a Bolzano e in altri posti sia diverso, ma e che io abbia trovato delle persone, un gruppo magari di persone così, però anche al lavoro l'altro giorno abbiamo fatto dei colloqui con delle nuove persone, parlavo con un ragazzo di montagna e lui dice, ah sì, sono stato, io faccio poco sci alpinismo, però sono stato sul Magerstuhl. Faccio, beh, ma se fai poco sci alpinismo sul Magerstuhl non è proprio una passeggiata. Sì, ma salire io me la cavo. E faccio, anch'io me la cavo, però scendere, infatti scendere è sempre una tragedia. Ma se tu fai poco sci alpinismo, come hai fatto a scendere dal Magerstuhl? Volando, cioè questo vola, va col parapendio, quindi sale con la vela e si butta giù. E non era Superman, era una persona incontrata per strada, e questo e questa è un po' la normalità della Valpusteria, quindi sì, pensaci bene. No, ma esiste, sono tutte persone che esistono anche, come dire, anche a Bolzano, il numero che è un po' diverso, la percentuale diciamo è più distribuita. Scusa, no, non volevo interrompere. Se però volete vi racconto del mio nuovo corso di bici, che non c'è nel libro. Il corso di bici? Allora, ho preso l'e-bike perché se non hai l'e-bike non ti muovi, no? Non sei nessuno, e perché mi sembrava una cosa molto intelligente. Finalmente prendo una cosa con cui posso fare a meno di fare fatica. E vado sulla luna più o meno in turbo e poi mi rendo conto che non so scendere, perché scendere con questa bici pesantissima giù per strade che non sono esattamente ciclabili, sono forestali, in realtà è difficile. Quindi più o meno smetto di usare l'e-bike. E quest'anno delle amiche pusteresi mi dicono fai il corso di bici, vedrai che serve tantissimo, vedrai che ti cambia la vita. Ok, è per principianti, l'ho fatto anch'io, guarda, mi ha sbloccato. Ok, mi iscrivo al corso di bici. C'era scritto che era per donne, e vabbè, io l'avrete capito, ho studiato un po' di tedesco e dialetto pusterese, ma non sono un genio. Comunque c'era scritto Bewusst, no? Che era per aumentare la consapevolezza e la Selbstsicherheit delle donne. Corso solo per femmine, faccio perfetto, cioè io devo aumentare consapevolezza, sentirmi un po' più sicura, mi iscrivo al corso di bici. Io vi giuro, non è perché siamo qua. Arrivano su una ruota in impennata 15 signore tra i 45 e i 55 anni, col casco integrale, i guanti integrali da moto, vestite con la maglia, con le protezioni, le ginocchiere, le scarpe da skate, per il corso di self-sicherheit delle donne. E la pubblicità, nella pubblicità c'era una signora con la gonna e il cestino, e io più o meno ero con la gonna e il cestino al corso, e ci insegnano a buttarci giù col casco integrale dalle montagne. La prima, vi dico solo che la posizione base si chiama gorilla position, che in Italia non è arrivata ancora. E da quando abbiamo iniziato questo corso giriamo, io e queste signore, in gorilla position, che è una cosa, cioè, più o meno così. Ecco, un corso di bici per principianti in Italia, mi permetto di dire così, non sarebbe così estremo. Mi chiedo come sia il corso per non principianti. Ma io infatti quando lo dicevo immaginavo un e-bike con le rotelline per indirizzarti a fare andare, forse in Italia è così. No, tu descrivi una serie di appunto di personaggi molto diversi nello stile che hai appena mostrato, e però c'è veramente questa cosa in cui sembrano cresciuti e seduti su un formicaio, no? Cioè non stanno fermi, non riescono a stare fermi. C'è questa continua ricerca proprio della fatica, quasi proprio di, che però poi cioè, per noi la vediamo così una cosa faticosa, per loro sembra normalissima. Questa cosa qua tu dici comunque che ti ha creato diversi problemi anche rispetto alle relazioni, immagino, alle amicizie, cioè diventa, tu racconti che in fondo per diventare amico di qualcuno devi allenarti anche fisicamente proprio. Sì, poi in realtà lo faccio con piacere, perché sì, critico sempre, mi lamento sempre, ma in realtà mi piace, quindi io sono contenta di aver avuto la possibilità e di avere tuttora la possibilità di provare tutte cose, quindi scalare, arrampicare, andare in montagna, andare in bicicletta, anche tutte le ski tour che ho avuto la possibilità di fare sono in realtà delle esperienze incredibili, è veramente come andare sulla luna tutti i weekend, però... Sì, questa è stata la chiave per fare delle amicizie e sono contenta di averla trovata, e se non avessimo questa forma di sport, io e gli amici che ho trovato forse effettivamente non avremmo molto da dirci, ma va bene così. Sì, è la nostra chiave in questo momento, e probabilmente con queste persone, con questi nuovi amici, se andassi, non lo so, a teatro o a visitare una città d'arte non funzionerebbe, non ci sarebbe la stessa chimica, almeno non con tutti. Ma d'altra parte, se portassi i miei amici di Roma a fare una ski tour di 2500 metri di dislivello, anche con loro non ci sarebbe la stessa chimica. Quindi è semplicemente un modo diverso di vivere la vita. Io sì, ho dovuto effettivamente sudare molto per certe persone è semplicemente un gran piacere fare sport a questi livelli, e probabilmente avendolo fatto da sempre non è neanche così faticoso. Sì, tu tra l'altro dici una cosa molto interessante rispetto all'amicizia. Tu fondamentalmente fai capire che l'amicizia con i sudtirolesi si basa soprattutto sulle cose che si fanno insieme e assolutamente non sul parlare, diciamo, cioè che per un italiano invece, come dire, la chiacchiera per un italiano è fondamentale. Chiacchierare con un sudtirolese della Valle Aurina può risultare più complicato. Sì, sì, sicuramente si parla meno, ma anche qua non è per forza un male, ma se inizi a vivere in pusteria, dopo un po' sintonizzi la radio o arrivi, passi Cimabanche, arrivi in Cadore, a parte che la radio non prende, quindi c'è tutta questa mezz'ora. Però finalmente quando si arriva si sintonizza sulle radio italiane, tutta quella pubblicità o tutte quelle persone che parlano in continuazione di «Ah, cosa fate al mare? Ah, dove andate stasera?» Quando vivi in pusteria dici «Ma come facevo a vivere con tutte queste parole, con tutte queste conversazioni?» In realtà credo che la mia vita negli ultimi anni si sia... spogliata un po' di parole, si sia riempita sì di metri di dislivello, e no, non per forza è un male. Credo che le persone, e continuo a dire a Valpusteria perché non voglio generalizzare su Bolzano, giudichino o comunque decidano di dare fiducia o amicizia a una persona in base non in base a quello che era, non in base a quello che sarà, ma in base a quello che fa e dimostra di essere. E non è per forza con le parole, a volte è semplicemente con la presenza, no? Questo restare, questo provare a restare, e non per forza si fa dicendo molto. I miei amici dicono: gli italiani quando non sanno fare qualcosa lo insegnano, e allora forse il mio tentativo di questi anni è stato provare a non insegnare niente, ma imparare tutto, in realtà, a imparare tutto di un nuovo stile di vita. Sì, premesso che per fortuna il nuovo eroe locale è uno che gioca a tennis, quindi intanto ci diamo una calmata. Ma strano che non sia qui alla mia presentazione. No, è che c'è la festa proprio oggi, sì. Mi ha telefonato per avvisarti, ti chiedo scusa, ma proprio oggi c'è la festa a Sesto, è atterrato ieri a Bolzano, ma non riusciva a passare proprio adesso. Credo sia con tutte le autorità locali, peraltro. No, una cosa però è vera, adesso a parte gli scherzi, io se abito qua è anche perché apprezzo molte cose che sono qua, e a proposito di parole, chiunque salga su un treno si accorge subito della differenza salendo su un treno italiano e su un treno su tirolese, poi fino al nord Europa, perché appena si sale su un treno italiano ti vengono detto in due lingue qualunque cosa, benvenuti a bordo, c'è un continuo, chi vuole dormire su un treno italiano e non può farlo perché c'è sempre qualcuno, poi questo attiva tutte quelle telefonate, tutte quelle storie che si sentono poi sui social, per cui un viaggio su un treno italiano di parole se ne sentono davvero fin troppe, quindi capisco anche chi viene in Alto Adige in vacanza che può per un momento staccare dal fiume di parole da cui siamo sommersi dai media, dai social e dal vicino solitamente. Fatta questa premessa ti chiedevo però se volevi leggere un altro pezzetto. Non so, ve la sentite? Se no possiamo continuare a parlare. Dopo ricomincia, se vuoi, non è obbligatorio. Sì, no, ok. E per mano a mano entrare nel libro. Leggiamo gli amici, visto che stavamo parlando. Una volta riscontrati chiari sintomi di isolamento, proverai a contrastarli organizzando una festa. Inviterai tutti quelli che conosci, 14 persone in tutto, e la metà ti daranno buca. Proporrai di mettere a bollire dei Weisswürste per farli sentire a proprio agio, ma ti diranno che i Weisswürste di sera non si possono mangiare, che vanno bene solo per le feste di mattina, i Frühschoppen. Proporrai di iniziare alle 8 a casa tua, ti diranno che è meglio alle 6, altrimenti diventa troppo tardi. Sarà un fiasco. Il ghiaccio si scioglierà, lo spritz si scalderà, i moscerini vi affogheranno dentro, ubriachi. La playlist italiana non farà venir voglia di ballare e ci sarà poco di cui parlare. In fondo, insieme, avrete solo scalato, o sciato, o camminato. Mancheranno argomenti di conversazione e tutti avranno un'esauribile sete di birra, mentre in mano scalderanno il bicchiere dello spritz, pieno di moscerini galleggianti. Sarà un fiasco, appunto. Andranno tutti via presto. In frigo ti rimarranno bottiglie di Aperol per 10 anni in Südtirol, ma, contro ogni aspettativa, avrai aggiunto un tassello alla secolare costruzione di un'amicizia sudtirolese. Appurato il fatto che non sai organizzare feste, la prossima volta saranno loro a invitarti per insegnarti le basi della vita. Dress code, calzini, menù, birra a fiumi. No, meine Damen und Herren, l'amicizia sudtirolese non è quella in cui si parla di problemi intestinali, depilazioni permanenti, donne al potere e massimi sistemi. L'amicizia sudtirolese è qualcosa di sostanzialmente silenzioso, cui spesso ci si trova ad affidare la propria vita. Conversazioni composte da brevi parole di incitamento. Ale, dai, volle gas, bravo! Si ha spesso poco da dire in un'amicizia sudtirolese, ma si ha sempre molto da fare. Sì, ecco. Tra le varie cose che mi sono segnato, appunto, spiegando anche i motivi che credo rendano questa terra per certi versi apprezzata da tanti, visto che appunto io sono venuto quasi per scelta, tu quasi per scelta, forse anche tu, c'è ovviamente la montagna, e a parte gli scherzi, a parte la fatica, quella sensazione che si ha quando si cammina, che tu descrivi nel libro, che si arriva in cima a una montagna o che si vede il panorama innevato, ma non solo, primavere stupende, l'autunno anche, insomma le stagioni che si fanno apprezzare in Alto Adige e Sud Tirol sono tante, e tu scrivi, sono proprio due righe, in quel momento però tu, nuova montanara, sarai felice come solo i bambini nella neve. Cioè c'è un aspetto di collegamento al di là dei rapporti tra gli italiani e i sudtirolesi, che è forse il fascino principale di questa terra, no? In cui forse per quello non servono le parole, quasi si rovina in certi momenti quello che si sta osservando. Sì, sicuramente. Io sono nata a Pieve di Cadore, quindi sono nata in montagna, ho avuto l'infanzia dei bambini negli anni 90. Poi ho studiato cinese a Roma, lingue orientali, ho iniziato a lavorare per un tour operator cinese che organizzava viaggi per cinesi in Italia, quindi per un periodo vivevo tra Roma e Pechino. E portavo i cinesi in giro, in realtà, a viaggiare, a conoscere l'Italia. È iniziato come un classico Roma, Milano, Firenze, Venezia in 3 giorni, ma è migliorato. E andando verso in realtà 8 giorni Sicilia, Sardegna, Masseria in Puglia e Dolomiti. E quindi negli anni, anche se tutto questo è successo alla velocità cinese, quindi in pochissimo tempo, negli anni avevo iniziato a pensare di potermi specializzare come guida per le Dolomiti, perché di fatto ero nata qua, portavo i cinesi in tutta Italia e spesso la più grande difficoltà che incontravo era trovare delle guide per i cinesi sulle Dolomiti, quindi ho pensato perché non farlo io. Questo è il motivo per cui mi sono iscritta al corso per accompagnatori di media montagna in Alto Adige, e questo è il motivo per cui quando è scoppiato il Covid io non avevo lavoro perché non c'erano cinesi, ma avevo creato questo link con il Sud Tirol perché dovevo frequentare il corso qui. E questo riavvicinamento alla montagna, perché gli ultimi 10 anni avevo vissuto a Roma e un po' in Cina, in realtà mi ha fatto ricordare quanto mi piaceva in realtà e un po' quanto mi era mancato. E quindi tornare a sciare come lo facevo da piccola e fare delle cose ancora più estreme, ovviamente, di quando ero piccola, e cadere nella neve come quando imparavo a sciare, e ritrovarmi in posti di una bellezza estrema ma isolati, perché lavorare con i cinesi significa vedere cose bellissime ma essere sempre circondati da centinaia, decine di migliaia di persone, quindi ritornare ad avere il privilegio di essere da sola in posti incredibili mi ha fatto rinnamorare di questo posto e della montagna e di questo stile di vita. E probabilmente abbiamo detto che non è la strada più diretta quella di passare per la Cina, ma probabilmente se non avessi vissuto in Cina, se non avessi avuto a che fare con i cinesi, non so se avrei apprezzato così tanto la vita in Alto Adige. Non che sia necessario per forza andare in Cina per farlo, però il contrasto è stato molto forte, è stato sicuramente molto forte, perché quando vivi a Pechino non c'è modo di stare da soli, non c'è modo di vedere, di avere il privilegio di vivere un'esperienza unica. Niente è unico con i cinesi, e solo per andare al lavoro normalmente l'ufficio è in un grattacielo, normalmente al 30° piano, e quindi per essere alle 9 al 30° piano bisogna fare una fila di mezz'ora solo per prendere l'ascensore. Quindi aver provato quello, quando poi cadi nella neve rischiando di romperti le rotule per tutta la vita e cercando di ricordarsi il numero del soccorso alpino, ti sembra la cosa più bella del mondo. Sì, ammetto che era una domanda trabocchetto, perché la cosa più incredibile è che tu hai fatto, sei arrivata qui dopo un anno in barca. Sì. È quello, capire come si passa da un anno al mare, di cui hai dedicato anche un libro, poi passare alla montagna. Per chi, io ho sempre preferito la montagna per le vacanze al mare, poi da quando abito qua, però ogni volta che c'è qualche giorno libero vado al mare. Sì, allora ho fatto anche un viaggio in barca, adesso non voglio sembrare schizofrenica. Un pochino. questa è un po' un'altra storia. Credo che le persone che vivono in montagna abbiano anche bisogno di provare l'estremo opposto, quindi io ero incredibilmente attratta dal mare. Ho imparato ad andare in barca a vela, ho fatto dei corsi di vela, ho studiato a Roma, quindi a Roma ho preso la patente nautica, ho iniziato a lavorare con i cinesi. Come ho detto, c'è stato un momento che ho saltato, perché sì, per essere coerente ho saltato. C'è stato un momento in cui lavorare con i cinesi, ero diventata più cinese di loro, ero un po' gialla con gli occhi a mandorla, lavoravo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, lavoravo e basta. E mi sono resa conto che non avrebbe potuto funzionare a lungo quello stile di vita. Avevo amici velisti, avevo amici che avevano in barca e avevo in particolare un amico che era partito da poco per il giro del mondo in barca stop. E quindi con il dovuto preavviso l'ho comunicato alla mia società, mi sono organizzata e ho deciso di prendere un anno sabbatico. Questo era dopo 4 anni di lavoro con i cinesi. Per cui prima del Covid, era 2017-2018, ho passato un anno viaggiando in barca a vela. Chiedevo passaggi nei porti, in realtà ho preso 2 grandi passaggi, con uno ho attraversato l'Oceano Atlantico, con l'altro il Pacifico, e il concetto di quell'anno di viaggio è stato non tanto vedere posti, perché ho visto tantissima acqua, io vi potrei dire, descrivere per ore l'Oceano Pacifico, che è più o meno tutto uguale, ma in realtà il concetto era di provare a stare per un anno nello stesso posto, quindi di avere la stessa scatola, la barca, una cosa piccolissima dove ci si poteva portare solo l'essenziale e vedere il mondo, ma senza doversi continuamente, io vivevo con la valigia, mi dovevo continuamente spostare come i cinesi in queste città. Invece il viaggio in barca è stato l'opposto, quindi avere lo stesso guscio e muoversi, di fatto avendo davanti solo l'orizzonte aperto. E quello l'ho vissuto un po' come il contrasto rispetto alla persona che nasce in montagna, che vive in montagna e che ha bisogno di provare l'esatto opposto. A questo punto dobbiamo unire un po', dare un significato a tutto, quindi forse grazie al fatto che sono stata in Cina, all'esperienza in barca, l'arrivo in Alto Adige, dove hai il guscio piccolo, si arriva in cima agli orizzonti infiniti e c'è poca gente, almeno in alcuni posti, forse è stata la chiave per trovare un buon equilibrio di vita, almeno finché non mi viene un'altra idea allucinante, ma speriamo di no. Sì, io avevo ancora 2 domande, ma le riunisco in una unica, poi do spazio a voi se volete fare, se avete dei dubbi, se volete chiedere qualcosa, insomma. C'è una parte che tu sfiori, diciamo, che è un po' la differenza, ne parli quando parli di Berlino, diciamo, la grande differenza tra, per esempio, il mondo tedesco della Germania e il mondo tedesco sudtirolese. Una cosa a me che è sempre piaciuta della cultura tedesca, per esempio, è invece che una ricerca della fatica, la ricerca della comodità. Ci sono notissime immagini di Angela Merkel che non appena si siede a un tavolo si toglie le scarpe, perché vuole stare comoda. È la cosa che fanno quasi tutti i pendolari tedeschi quando entrano in treno, se c'è posto, perché vogliono stare comodi. Poi li ritroviamo d'estate con le biciclette a un'età improponibile, che il colore è ancora più improponibile, che salgono su per le montagne con le bici neanche a pedalata assistita a volte. Però c'è un atteggiamento, secondo me, tipico del Sudtirolo, che mi hanno riportato i sudtirolesi stessi. In particolare mi riferisco a una persona di cui non faccio il nome, ma che è a tutti gli effetti un imprenditore, ha un allevamento, gli appartamenti, un maneggio, ha un'attività economica che gli permetterebbe di vivere tranquillamente nel lusso, e me lo ricordo perché un sabato pomeriggio rientra nella sua malga, che fa anche da ristorante, a trattoria, e mi dice: ma perché io oggi, sabato pomeriggio, mi metto a lavare i piatti? Perché lui lavava poi i piatti. Ed è la normalità in Sud Tirolo. Cioè, un italiano, se fa i soldi, è più facile che poi si compri il macchinone e faccia vedere di averli. Ecco. Per i sudtirolesi, no. Tutto questo era appunto la prima domanda, ma la collego all'unico aspetto su cui io ho una perplessità rispetto al libro che hai scritto, che è nell'introduzione. Perché tu dici: avere a che fare con i sudtirolesi significa misurarsi con uomini liberi. E questo io avrei bisogno di una spiegazione, perché appunto per quello che ho detto fino adesso non so quanto siano uomini liberi davvero. Ok, quindi secondo te in realtà non c'è libertà, nel senso che c'è una sorta di attaccamento al lavoro o di morbosità nei confronti del lavoro, no? Più o meno. Comunque di un senso del dovere che porta anche ovviamente dei vantaggi nella gestione del territorio, ma talmente forte, cioè faccio un esempio banale, io il sabato pomeriggio, poi a parte gli scherzi, vado a camminare in montagna e soprattutto con i primi caldi si trovano questi bambini dai 10 ai 15 anni che raccolgono il fieno col rastrello. Ecco, io vorrei chiedere a qualcuno qui presente, se chiede al proprio figlio il sabato pomeriggio a 15 anni di andare a raccogliere il fieno, il rastrello gli arriva probabilmente in fronte. Cioè si viene cresciuti così, con un controllo anche sociale che ha ovviamente anche dei lati positivi, ma che rende, come dire, ecco, a me non sarebbe venuto in mente, okay, di definire come uomo libero l'uomo sudtirolese. Sì, io non credo che la presenza di libertà corrisponda all'assenza di senso del dovere. Credo che si possa avere un profondo senso del dovere nei confronti dei compiti di scuola, dei lavori a casa, anche del lavoro, e allo stesso tempo sentirsi liberi, perché credo che la differenza, adesso prendo te perché sei qui, ma senza particolare accusa, però la differenza tra te e gli uomini che io provo a descrivere, o anzi tra te e il tuo amico, è che tu puoi andare in baita il sabato e la domenica, e lui il sabato e la domenica decide con piacere non parziale o totale o minimo di lavare i piatti, ma probabilmente il mercoledì pomeriggio può andare a buttarsi nel laghetto, può fare la passeggiata, il famoso 1000 metri dietro casa, può buttarsi col parapendio alle 6 di mattina, o probabilmente, se è un po' il personaggio che hai descritto tu, addirittura all'elicottero, con cui un banale martedì alle 8 meno 17 minuti può farsi il giro delle Dolomiti per atterrare e poi andare al lavoro. Quindi secondo me la libertà è la libertà di potersi prendere dei momenti di lusso vero nei momenti più impensabili della vita normale di una persona. E probabilmente se lo possono prendere proprio grazie a questo senso del dovere, che poi li porta nel momento del bisogno a lavorare, a rastrellare, a fare i compiti, a gestire la baita, secondo me. Sì, siccome mi è stato tirato in mezzo, io non ho mai il timbrato, lunedì! Non ho mai timbrato un cartellino, quindi io, per me è normale lunedì, martedì o mercoledì, quando voglia di andarmene dove preferisco, però appunto non mi metto a lavare i piatti o mi metto a far fatica, io me la godo, leggo, vado in viaggio, insomma cerco di imparare qualcosa in più, ma questo non è, cioè, come dire, non è questo il tema, su non riguarda me, riguarda proprio l'idea di avere, sembrano fuggire dal tempo libero per certi versi, anche non fare niente. L'ozio è una cosa che può essere utile, si imparano tante cose annoiandosi, ecco, era più questo aspetto, però era anche un modo per lanciare. Sì, sull'incapacità di fare, cioè su quel non fare niente, ozio nel senso più latino del termine, posso darti ragione, anche se credo che ci sia l'innata capacità sudtirolese di poter contemplare per magari non ore, però minuti, dei panorami infiniti, nel senso sono persone che sanno stupirsi e sanno amare tutto quello che li circonda. In autunno io in realtà mi capita spesso di sentire la frase che belli, ho visto dei larici bellissimi. Ci vuole secondo me capacità e tempo libero per poter ammirare un bosco di larici in autunno. Sì, sì, sono d'accordissimo. Adoro avere tempo libero. Ne ho tantissimo. Io il lunedì ammiro i boschi. No, però non lo so cosa ne pensate voi, invece in realtà è un tema aperto e non credo di avere la risposta universale a questo. Sì, sì, esatto, era anche un modo per lanciare le domande, perché comunque, insomma, è un tema per chi viene da fuori tipico, no? Quello di confrontarsi con una popolazione con un'identità molto forte, che ci tiene molto alla propria identità. Le caratteristiche che tu hai elencato fanno parte dell'identità, come degli italiani fa parte, non a caso è scritta la lettera sul cibo, per noi è diventata una questione ormai, una delle poche cose che ci preserviamo e su cui ci fissiamo in quanto italiani, per cui era anche un modo per trovare, siccome quando si trattano questi temi c'è sempre un po', soprattutto per chi è nato qua, qualche problema, tu lo tratti in una maniera un po' diversa, potrebbe essere l'occasione anche per parlare liberamente, ecco. O se no fate domande che volete, non c'è problema. Siete liberi. Generalizzare così degli stucchevolesi mi sembra un po'... Un po' eccessivo. Sì, infatti... Sì, infatti abbiamo iniziato parlando dei pusteresi, poi... Ah, sì, questo si è accorto. No, ma anche lo sport nazionale, il calcio, le promozioni, le eccellenze, questo, se guarda i giornali, l'altro giorno vedo una squadra di Lazfons che va in Lazfons. C'è un campo di calcio stupendo a Lazfons. Sì, c'è uno stadio pazzesco. Ma anche quello ci sono dialetti sudtirolesi e dialetti sudtirolesi. Sì, ha assolutamente ragione. Infatti abbiamo iniziato cercando di usare la parola pusteresi, perché appunto io mi sono trasferita lì. Poi andando avanti con la conversazione, io tendo per errore a utilizzare il termine sudtirolesi per pigrizia in realtà, ma c'è anche una piccola nota all'inizio del libro in cui ammetto di fare dei riferimenti ma di non avere assolutamente la pretesa di catalogare tutto l'Alto Adige e le abitudini di tutte le persone dell'Alto Adige, perché non ne sarei capace. E a Lazfons sì, c'è uno stadio di calcio incredibile, sembra di essere sembra uno stadio di Champions League. Altri? Prego. Pensavamo di Lazfons. No, anche io credo che siano, diciamo, liberi nella misura in cui sono meno condizionati socialmente rispetto alla media italiana. Quindi questa è una cosa che secondo me salta all'occhio. Quello che invece faccio fatica a comprendere, lo rispetto non faccio fatica a comprendere, è assolutamente, se vogliamo, l'obbedienza a questo concetto di identità. Sì, io rispondo perché ero, appunto, ero quello che ha detto che non erano liberi, volendo alzo anche un po' il tono, diciamo. Secondo me i sudtirolesi sono per certi versi, come per assurdo, anche i tedeschi di Germania, più liberi degli italiani perché sono più responsabili. Gli italiani sono meno responsabili. La responsabilità la si vede, per esempio, girando per l'Alto Adige, la responsabilità che si ha verso il proprio territorio, verso i propri figli. Non a caso questa è la provincia che ha più nascite in Italia. Su questo siamo pienamente d'accordo. Però è innegabile che ci sia un controllo sociale forte. Cioè, i sudtirolesi giustamente rivendicano tra gli aspetti della propria identità anche la caserma dei Vigili del Fuoco, le bande, le associazioni musicali. Quindi entri dentro sempre una collettività. Anche i partiti politici che si richiamano alla libertà e la libertà del popolo sudtirolese, le libertà individuali. In Italia non sono state tante riforme liberali nella storia dell'Italia repubblicana, ne hanno fatte due tendenzialmente, che riguardano una le donne direttamente, la legge 194 e la legge Basaglia. Sono due leggi che qua faticano tantissimo ad essere accettate, per esempio. Quello per me è un segnale che sulla libertà individuale qualche problema c'è. Avevo detto che alzavo un po'. Comunque, secondo me, la Bolzanina VOC, però di madre lingua italiana, c'è sempre questa sovrapposizione e questo grandissimo problema di identificare il Tirolo con la popolazione tedesca e quella delle valli. Questo è il caso specifico della Valposteria. Ma non dimentichiamoci che i bolzanini, cioè che i sudtirolesi, sono anche italiani. E noi abbiamo il mix delle due cose, non dico che abbiamo preso il meglio di uno e dell'altro, però siamo ancora diversi. Certo. E io mi sento di essere più ricca perché ho il senso di responsabilità, l'amore per la natura, il senso sociale, però allo stesso tempo faccio piatti italiani, mi piace mangiare il formaggio piuttosto che la bottarga e il pesce, e quindi cioè, la vedo da questo punto, quindi capisco benissimo che ovviamente il punto di vista è quello della Valposteria, però non bisogna dimenticarsi che c'è ancora una terza fascia che viene purtroppo sottovalutata spesso, non nel libro. Mm-hmm. Sì, io credo che in realtà chi vive meglio sono le persone che riescono a prendere il meglio di tutte le parti, e questo in realtà non è facile, perché spesso si tende a rimanere ognuno barricato dietro il proprio concetto di identità, che è qualcosa che si è imparato spesso da piccoli, no? E in realtà chi riesce a un po' a spogliarsi di questi stereotipi e a prendere da entrambe le parti del muro il meglio, vive probabilmente alla miglior qualità della vita d'Europa. Certo. Prego. Allora. Sì, sì. Partendo dal presupposto che io sono di Bolzano, non sono delle valli, sono di Genova, vengo dal mare. Spesso mi manca la vista del mare, mi manca l'orizzonte, fisicamente proprio. Io credo che fosse il tuo presupposto, un trattato sociale legato alla distorsione ironico con cui hai affrontato. Ti faccio due domande. Uno. Ma in realtà l'esigenza, a me piace scrivere, avevo scritto un libro precedente sul viaggio in barca, si chiama Un anno in barca stop, e era un po' un piccolo manuale anche quello, quindi un piccolo manuale dell'approccio al viaggio in barca stop, i barcastoppisti chi sono, cosa fanno, che lingue si parlano in barca, il mal di mare, i rapporti tra le persone. E in realtà dopo il primo anno in Alto Adige ho iniziato un po' a pensare a un progetto simile, quindi a fare un manuale, non per gli altri, in realtà per me, per cercare di mettere un po' in fila quello che avevo provato, non tanto imparato quanto provato. E mi è venuto naturale creare una struttura simile, quindi l'Alto Adige, la lingua, gli amici, il cibo, come i vestiti, come ci si veste, gli sport, quindi forse sì, ho questo approccio di manuale alla scrittura. E prima una signora mi ha chiesto per chi l'ho scritto, forse volevo un po' fare i conti con me stessa, un po' capire, provare a buttarlo giù e a capire se veramente volevo rimanere o no. Sì, cercavo la ricetta. E poi mi sarebbe piaciuto spiegare ai miei amici a Roma, ad esempio, o quelli di Pieve di Cadore che non vivono più in montagna, cosa faccio, perché un po' ci siamo persi di vista o comunque non ci capiamo, loro non capiscono minimamente la mia scelta di vita in Alto Adige. E in realtà ne è uscito un libro che, almeno per adesso, poi è uscito da poco, in realtà non lo so neanche dire, ma l'impressione è che lo leggano più volentieri i pusteresi, e per trarne una, adesso non voglio neanche passare il messaggio pusteresi lettori forti, però chi lo sta leggendo in Valpusteria sembra che ne tragga un po' un'interpretazione di quello che sono e di quello che ho visto. E fanno molta più fatica i miei amici di fuori, perché si stancano al primo capitolo, già tutto questo dislivello, già tutto questo sport, ci sono diverse lingue, no? C'è il tedesco, c'è il dialetto, c'è l'italiano. In realtà una persona che è totalmente estranea da questa realtà e che conosce l'Alto Adige solo perché è stato una settimana a fare la settimana bianca a Corvara fa fatica, forse anche fisica. E invece chi vive veramente qui, o chi ha vissuto, chi è qui, ne trova un'interpretazione che poi può piacere o non piacere. Per adesso credo è andata, diciamo. Sì, credo per adesso. No, cioè il mio padrone di casa, sì, un po'. Mi ha detto Südtirol ist Italien. Però anche lì. E gli ho detto, ma non volevo essere politica, mi dispiace, non intendevo questo. In realtà aveva letto solo il titolo e non ha... Non... Sì, è caldo, sì. Sì, infatti lui è di madrelingua italiana e questa conversazione l'abbiamo avuta alle 7 di mattina in garage. Mi ha detto Südtirol ist Italien, e non lamentarti se ti bucano le gomme adesso. Ma io gli ho detto ma non volevo, cioè io ho parlato di carbonara, veramente di Langlaufen, Eisstockschießen, cioè veramente sono le righe forse più lontane dalla politica, credo, almeno intenzionalmente. E grazie a te. C'erano altre due, prego. Anche Fogelscott. Anche per una spregiudicatezza, un'apertura, lei impara non solo la lingua ma anche il dialetto, cerca di confrontarsi con delle persone, mentre io lo usavo, ho spesso anche la sensazione che ci sia un scetticismo, almeno per queste persone che vivono nelle valli, un po' magari ispirato anche dal momento della vittoria, noi portiamo la cultura, eccetera, quindi la cultura qui sarebbe di bassissimo livello. E questa lingua anche che è molto entusiasta, ha la freschezza dell'acqua di un ghiacciaio che spunta mi piace tantissimo. Grazie. Grazie. Prego. Rispondere? No, cioè, capisco, condivido, voglio vederlo il corso di iniziazione alla bici in Abruzzo, però no, capisco che da qui ci sia una percezione assolutamente diversa, quindi capisco di arrivare qui con un punto di vista molto, pusterese, io ho a che fare con tutte persone delle valli, e in realtà ho vissuto tutto quello che non è turismo della Valpusteria, tra l'altro lavoro in un'azienda locale che non ha nulla a che fare col turismo, quindi capisco che la mia percezione della realtà non sia la percezione universale della realtà, e trovo in realtà molto interessante arrivare a confrontarmi a Bolzano. Io faccio anche una grande critica, cioè grande, una velata critica ai parrucchieri, perché i parrucchieri in Valpusteria sono da galera, ma ora che siamo qui penso che potrei venirmi a tagliare i capelli a Bolzano, ad esempio, quindi sì, capisco che qua ci siano anche dei bravi parrucchieri in realtà. Sì, no, prima di chiudere, poi se ci sono altre domande, faccio solo una precisazione. Io per arrivato in Alto Adige l'ho incominciato, già lo conoscevo in parte, l'ho girato tutto e continuo a girarlo. Adesso se riesco ripartirò per seguire tutto l'Adige dalla Val Venosta fino a Bolzano, seguirò Rienza, insomma tutti i fili, Isarco, se riesco li seguo tutti. Quello che credo si possa dire del libro è che ha un approccio esattamente opposto al mio, nel senso che però lei è completamente, cioè, radicata nel territorio in cui, cioè lei ci ha provato, io no, a me, io sono qua adesso, tra 10 anni non lo so, non mi importa, cioè, mi sento davvero, sono d'accordo con lei che questo sia uno dei territori con la migliore qualità della vita in Europa, quindi del mondo, anche per fortune climatiche, nel senso che non c'è questa grande differenza col nord del Tirolo, col sud Tirolo, c'è che il clima, basta andare, non so al Brennero se c'è un webcam e qualcuno vuole controllare, penso che nevichi anche adesso perché se piove qua, e quindi ovviamente è un territorio però molto interessante, e poi se vuoi aggiungere una chiusa tu, io una cosa che non ho mai perdonato agli altoatesini e ai sudtirolesi è che se ne parla tanto, ma l'orgoglio di essere altoatesini e sudtirolesi, cioè di essere sia italiani che tedeschi, lo vedo veramente pochissimo. Io quando sono arrivato ero contentissimo di avere la carta d'identità verde, che era diversa da quella del resto degli italiani. Qui vengo accusato di dire, vabbè, tu dimentichi tutte le questioni etniche perché non le hai patite come quelli che sono nati qua. Verissimo, e sono contento di non averle patite e di avere uno sguardo che dice, siete in un posto in cui si vive benissimo, se apri i giornali di oggi dopo le elezioni, sinceramente, ho i conati. Ma questo è un altro discorso. Ecco. Sì. Nella traduzione del libro intendi? Per me in generale. Ok. Sì, ho fatto il corso di dialetto. Io ho studiato diverse lingue nella mia vita. Io ho studiato cinese, inglese, un po' di francese, un po' di spagnolo. Ecco, l'unica lingua che proprio non avevo mai affrontato era il tedesco. E quando ho iniziato questo corso per accompagnatore di media montagna era in italiano, ma si svolgeva qui, quindi mi sono resa conto di quanto vivere qui, lavorare qui e non sapere il tedesco fosse imbarazzante. E ho fatto un corso a Innsbruck che si chiamava Deutsch Intensive Crash Course, in cui per una settimana mi frullavano 10 ore al giorno one to one in tedesco. Non ho imparato il tedesco, ma era per sbloccarmi un po' l'orecchio, e poi ho iniziato a seguire delle lezioni. Intanto ero già qui, ho iniziato a lavorare e non capivo nulla di nulla. Tra l'altro in questo ufficio mi hanno messo al telefono, una catastrofe, rispondevo ma non capivo, e a un certo punto ho detto: il corso di tedesco è una truffa, mi stanno truffando, perché ho anche un po' di predisposizione alle lingue, cioè parlo cinese, dicevo non è possibile che dico due, cioè questo zfa, non ci andavo fuori. E un mio collega mi ha detto: fai il corso di dialetto. Il corso di dialetto mi ha cambiato la vita, non perché io adesso parli fluent, Pustra dialect, ma perché avere una persona... Io ero inserita in un ambiente in cui si parlava solo dialetto. Nel mio ufficio si parla dialetto, nessuno parla tedesco. Mi dicevano che parlavano tedesco, ma non era vero, nessuno parla tedesco. E sì, questo Hochdeutsch non. E quindi avere una persona che finalmente metteva in riga quelle quattro parole, mi spiegava che zfoa, hoam, soal, manondo gen, queste cose che sentivo in continuazione e per me erano sillabe slegate, mi ha cambiato la vita. Perché intanto se la tipica situazione in cui parte una conversazione, tu sei l'unico italiano, ci sono dei pusteresi, sei italiana, allora si parla 30 secondi italiano, tutti con le mani, e poi ovviamente si va sul dialetto, e io lì perdevo tutto. Invece ho iniziato un po' a seguire il filo del discorso, quindi io sono bravissima a infilarmi nei discorsi, insomma a seguire facendo logisch, poi non capisco niente, però ho imparato queste paroline da infilare, e questo cambia l'approccio delle persone nei tuoi confronti, no? E ora non lo parlo bene, ma il fatto che quando parlo provo a mettere qualche parola, o comunque si percepisce il mio sforzo, viene in qualche modo riconosciuto. Poi sono andata a Berlino e mi volevano mettere in galera perché non si capiva assolutamente niente di quello che dicevo a Berlino, mi dicevano: può parlare inglese per favore? Però sì, il corso di dialetto io lo consiglio a tutti, no? Io faccio, no, non lo dico a Bolzano ovviamente, ma faccio fatica a pensare che si possa vivere bene in una valle pusterese, ma anche a Brunico, senza il corso di dialetto. Che questo non significa che poi bisogna solo e sempre parlare quello, però è un valore aggiunto, secondo me. Sì, qui molto probabilmente no, anzi sicuramente. Scusa. Sì, infatti poi. Sì, è difficile. Sono due dialetti completamente. Se lei adesso va a Sarentino, sì, qualcosa capiscono, ma non del tutto. Ma anche in Valle Aurina, no? In Valle Aurina da noi che scrivono tutto tutto così, e cambia totalmente, soprattutto quando scrivono, tra l'altro. No, vi ringrazio in realtà per il confronto, per essere venuti, per la chiacchierata. E se qualcuno ha un parrucchiere da consigliarmi qua a Bolzano, a Brunico ovviamente. Volentieri, grazie a tutti.